facendo però come è successo non so, siamo arrivati ad un bivio. Tu mi hai guardato, lo sai, poi all'improvviso hai deciso ed hai imboccato quel bivio. Avrei voluto seguirti, avrei davvero voluto, ma non l'ho fatto. Sono rimasto e pensavo, e dunque questa la fine, questo quello che merito. Tutto l'amore che dai è sempre bene investito, e tutto quello che dai ritornerà moltiplicato. Allora forse chissà, forse non era destino, e tutto quello che sei è un uomo solo ad un figlio. Guardavo e vedevo la tua figura in distanza e poi svanire nel buio. Avrei voluto